locale è un mito vivente. Oltre a essere docente di storia dell'arte all'Accademia di Bologna, giusto? Critica d'arte, non diciamo castroneria, diciamo, esatto. Da subito, e nonché naturalmente curatrice di svariate mostre che si sono succedute durante Arte Fiera in questo periodo, e che alcune sono terminate, altre un po' meno. Tra cui, in realtà, questa puntata non doveva avere Maura e Fabio Lanaldi, che salutiamo. Voi sappiate che voi due siete dei semplici ripieghi. Perché Fabiola mi ha chiesto di fare la puntata. L'avevo sempre sognato. Di essere un ripiego radiofono. Sì. Beh, l'altra volta eri ospite d'onore, per cui insomma. Non sempre possibile. Sono una ripiega. Infatti, esatto. No, perché Fabiola mi ha chiesto di fare la puntata. Come l'aveva chiamata la puntata di approfondimento della mostra Three Body Configurations, che è una mostra che c'è in questo momento, anzi ha chiuso da poco, perché è l'unica mostra al mondo che apre a lunedì alla Fondazione del Monte in via Donzelle 2. Via Donzelle 2. Urli un po', avvicinati un po' al microfono perché non ti sentiamo male. Via Donzelle 2. Ecco, perfetto. Raccontaci tutto. Innanzitutto, come vi è venuto in mente di mettere insieme queste tre artiste abbastanza strane che poi adesso ci introduci? Lo dici già tu. Lo dico già io. Nel senso, sì. Appunto. Che siamo in due, io e Fabiola, ad avere avuto questa idea, e quindi è una mostra su cui lavoriamo da tempo, che volevamo a tutti i costi e che ci ha dato delle grandi gioie, ma anche ci ha fatto stressare molto, proprio perché le artiste sono un po' strane, e mettere insieme tre figure così diverse per appartenenza culturale, ma anche per periodo storico, comportava configurare una nuova cosa, un nuovo discorso. Beh, proprio una delle tre vi ha dato poco fastidio, giusto? No, una delle tre, anzi, è quella che ci sta dando anche più soddisfazione da un certo punto di vista, perché non la conosceva quasi nessuno. Sono contente le altre due. E quindi è stata proprio una vera rivelazione. Lascio a te il compito di pronunciare il suo nome come si deve. Sì, Claude Cahun. Cahun, ah, sì, ok, allora non c'ero andato lontano. No. Ed è la più anziana, okay, proprio in termini cronologici, perché è un artista, un personaggio che io reputo veramente colossale, importantissimo, degli anni 20, dove sono esposte in mostra, di cui sono esposte in mostra ben 38 scatti fotografici per la prima volta in Italia. Ah, addirittura per la prima volta in Italia? Sì, per la prima volta in Italia, e per questo dico che è una scoperta, perché a parte pochi addetti ai lavori, il coraggio, la libertà, il pensiero, la scrittura anche di Claude Cahun, perché oltre a essere fotografa è anche una grande scrittrice di aforismi, scrittrice di racconti, brevi racconti, e anche scrittrice di teatro, che apre in un certo senso la mostra. È proprio lei la prima che attraverso il suo corpo, e attraverso anche un corpo che in qualche modo performa, ci ha dato la possibilità di metterla in relazione con altre artiste che hanno performato con il corpo e attraverso fotografie hanno proprio in qualche modo immortalato il corpo in relazione a un principio identitario, in relazione allo spazio pubblico, in relazione a un ipotetico altro che è poi per lo spettatore, insomma, alla fine. Dopodiché abbiamo Vali Export, che è un colosso, un colosso dell'arte concettuale, sì. Non lo so. No, lei, fra l'altro, sta bene ed è in splendida forma. Sta bene, splendida forma, è quella che ci ha fatto soffrire di più. Naturalmente, essendo probabilmente anche l'artista più famosa delle tre, paradossalmente. Ma più che altro ci ha dato un filo da torcere, perché in questo momento è stata veramente riscoperta e osannata, e quindi ha una galleria importante internazionale che si chiama Ropac, e quindi probabilmente lei stessa non riesce a gestire questa mole di lavoro, di richieste. Quindi fino all'ultimo non sapevamo se i lavori che volevamo in mostra sarebbero arrivati, se soprattutto fossero stati quelli che avevamo scelto come curatrici. Alla fine sono arrivati e devo dire che è stato un'esplosione di felicità, insomma, quando abbiamo visto le foto. E abbiamo visto anche la dimensione delle foto, la potenza, la forza, certo, delle foto che ci aveva mandato, perché un conto è vedere le opere degli artisti al computer e un conto invece vederle quando le scarti e quando proprio le hai fisicamente, e c'è una forza fisica della fotografia che molto spesso non viene sottolineata, proprio una matericità, un'imponenza che invece in questo caso esplode nella seconda sala in mostra. Quindi era fondamentale avere Vali e avere quelle foto. Oltretutto la mostra prende il titolo dalle corporate configurazioni proprio di Vali Export, sì, e quindi è un omaggio a questo tipo anche di senso, di fare politica e di essere anche politicamente femministe senza dover per forza appunto alzare il pugno o mostrare insomma le nudità. Cose che Vali Export ha fatto, ma che invece infatti, in questo caso nella mostra sono state invece prese appunto le body configurations. Mm-hmm. Che sono fra l'altro stati cioè un lavoro veramente seminale che tantissimi artisti hanno guardato, riscoperto, copiato anche brutalmente eccetera. Sì, e continuano a farlo anche, sì, oggi senza rendersene conto. Infatti, è una mostra anche didattica da un certo, sì, punto di vista. Sì, è vero. Perché se non dice nulla di nuovo, proprio perché sono artiste storicizzate dall'altra parte, serve ai giovani proprio per capire quanto certe cose sono state sondate. Esatto. E infatti anche il lavoro di Otto nella Mocellin devo dire che è perfetto in questo, perché vedi delle cose che magari dici ah ma questo lo fa anche questo, quest'altro, poi però vai a vedere le date e sono degli anni 90, che effettivamente era una cosa innovativa da fare ormai sono passati 30 anni dagli anni 90. Sono passati 30 anni, esatto, e quindi tutte le considerazioni che si possono fare appunto sugli anni 90 in questa mostra ci servono proprio per raccontare anche qualche cosa di, mi permetto il termine, filosofico oltre che di storico-artistico, perché i corpi orizzontali sul paesaggio ci parlano proprio anche di questo. Oltretutto Ottonella Mocellin sul catalogo, bellissimo devo dire, qui devo ringraziare l'editore Corraini che ha pubblicato per questa mostra, c'è proprio una sua autobiografia e quindi si racconta. Ah, fantastico. E lei ha dichiarato più volte che le abbiamo fatto fare una cosa molto difficile, perché per un artista autoraccontarsi e scrivere la propria biografia non credo sia facile. E lei in questa autobiografia, ma come anche in altre interviste che ha rilasciato insieme a Nicola Pellegrini in tempi anche più indietro, ha sempre citato Adriana Cavarero, che è una filosofa italiana molto importante, che ha scritto un testo fondamentale per chi è interessato alla filosofia della narrazione, proprio in cui è sempre un altro a raccontarti, anche quando sei tu che vuoi scrivere la tua biografia e la tua autobiografia, in realtà hai bisogno di un occhio esterno, e quello che la Cavarero chiama l'altro necessario o l'altra necessaria. E in questa mostra ci sono tanti altri necessari a partire da me, che ho bisogno di Fabiola sempre per poter allestire, per poter dialogare. Però non hai risposto alla mia domanda, come vi è saltato in mente mettere queste tre insieme? Allora, volevamo fare una mostra, almeno io particolarmente sentivo questa urgenza, perché sono anni che lavoro in questa direzione, di fare una mostra di artiste solo donne. Mm-hmm. E peraltro la Fondazione Del Monte ha proprio ha questa indicazione per questo 2020 di occuparsi dei talenti femminili, e non lo volevamo fare nel modo in cui si fa sempre, perché ormai si è di moda se si fa la collana sulle romanziere, certo, se si parla di musiciste donne, se si appunto si tirano fuori filosofi e donne che invece in realtà hanno fatto la fame, perché è un mondo ancora oggi in mano agli uomini. E quindi questa istanza di fare una mostra al femminile la volevamo però confezionare in un modo che non fosse così esplicitamente femminista, perché ne avevamo viste tante di mostre e c'era sempre un po' questa istanza. Volevamo invece fare una mostra che parlasse di corpi di donne, e di corpi di donne che attraverso esclusivamente alla fine autoritratto, perché di quello parliamo di tre artiste che hanno utilizzato semplicemente, certo, se stesse e il loro autoritratto, esprimessero idee estremamente profonde e degli interrogativi che possono invece essere gli interrogativi poi anche di oggi, della contemporaneità, anche se non ho lavorato negli anni, certo, 20, negli anni 70, 80 e negli anni 90. Cioè, qual è il ruolo della donna, qual è la posizione della donna, qual è, cosa perché... pensa una donna, e soprattutto non solo chi è una donna, ma dove sta. Ma io, dove vive? Io credo che le istanze filosofiche nella storia dell'arte siano poi sempre le stesse, no? Cioè, la vita, la morte, dove siamo, dove andiamo. Cioè, in fondo gli artisti seguono gli stessi percorsi, che sono gli stessi percorsi dei filosofi, appunto. Certo, il rischio era quello però di fare una mostra con più artiste o più in qualche modo frastagliata, sì, perché si poteva appunto partire da Claude Cahun, perché volevamo assolutamente che arrivasse in Italia, certo, con quelle foto, ma dopo ne potevi mettere tante dentro. Invece l'idea forte della mostra è di essere così secca, di aver preso proprio una posizione, e lì siamo partiti con più nomi e poi siamo andati a togliere, perché questa è una caratteristica, insomma, che ci piace, anche quella appunto di andare al sodo, di fare delle mostre dure, secche, e che quelle sono, poi possono appunto piacere o non piacere, ma noi lo dichiariamo anche sul catalogo, in quello che scriviamo, che questa era la direzione. Poi certo, magari ci sarà qualcun altro che farà 5 body configuration, 10 body, certo, configuration, però intanto questa era la nostra body configuration. Certo, fantastica. No, la mostra è assolutamente da non mancare, anche perché è in via indipendente, praticamente in via indipendente, ed è gratuita, non so. L'unico cioè, esatto, infatti, forse manca giusto aperta di lunedì. Aperta di lunedì, infatti. E sì, forse manca giusto qualcuno che di sabato pomeriggio prenda la gente e la porti e dica: "Scusi, papà, volevi interromperla un attimo, ma lo sa che c'è una mostra qua di fianco di fotografe fantastiche, gratuito, eccetera." Ma e dunque la fondazione vi dà carta bianca? Come funziona la programmazione delle mostre della fondazione? Allora, la programmazione della mostra della fondazione funziona che puoi anche dirmi, te lo devo dire perché io ti faccio le domande. Questa è una domanda trabocchetto. Allora, perché sì, certo, io rivesto in città anche il ruolo di consigliera d'amministrazione della Fondazione del Monte. Certo. Per cui la Fondazione del Monte ha anche delle iniziative culturali proprie, oltre che erogare ovviamente finanziamenti per, sì, le associazioni che fanno arte, letteratura, teatro, musica. E quindi c'è un budget adibito proprio alle iniziative culturali proprie. Certo. Ci sono gli archivi di mezzo, c'è l'editoria. C'è uno spazio espositivo comunque importante, insomma, non è male per niente come sala di mostre quello. Ma è uno spazio espositivo difficile, eh? Sì. Molto difficile, infatti a ogni mostra ci si inventa un allestimento adeguato e i curatori chiamati a provare a fare delle mostre lì dentro, e qui lo dico perché c'è Claudio di fianco a me, sono sempre molto bravi anche nel curare e nell'allestire, perché se non si sa allestire lì dentro è uno spazio che risulta un po' difficile, insomma, è un po' costrittivo. Sì, al soffitto un po' basso. Al soffitto un po' basso, ha un sacco di interferenze anche proprio nel... e poi ha questi pannelli demoniaci. Effettivamente. Su cui attaccare. Avevo visto una mostra, cos'era? Una mostra sul paesaggio. Sembrava proprio buttata lì così. No, naturalmente scherzo. Claudio Musso ha curato una mostra sul paesaggio veramente meravigliosa. Lo dico con sincerità, non solo perché sei qui e perché ti ho stipendiato per venire a Croxo Spaziale. Per cui diciamo che il mio ruolo all'interno della fondazione mi aiuta anche a poter decidere che cosa portare al consiglio d'amministrazione, considerando che quasi nessuno sa di arte contemporanea, effettivamente noi parliamo come se fosse normale, no? Parlare di vari export, di Franco Vaccari, eccetera, ecco. Ma effettivamente sono nomi che pressoché nessuno conosce al di fuori del nostro, no, del nostro mondo. No. Forse sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando coxo spaziale. Ecco, lui forse li, sicuramente li conosce. Un gigante. Ma è venuto qui? No, non ci sono riuscito. Non sono riuscito a portare Cesare, però ho fatto quasi una sorta di mezzo speciale su di lui, perché l'ho intervistato prima della sua mostra e siccome ha parlato per mezz'ora l'ho messa tutta. Così, ho capito. E a questo punto facciamo questa cosa, che mettiamo un pezzo e poi la pubblicità della mezza, visto che ormai sono i 27. E basta, questo è sempre Coxo Spaziale, io sono Stefano W. Pasquini e voi state ascoltando Radio Città Fujikoi. Is my world where I can see no star, the one where I'm alone, the one that will lead just one bone, and for the things I am losing, and for the love it was, I am begging you not to stay. Remember, change will always be the way. Ti aspetta a Bologna Fiere, matrixtecnologie.com. Eccoci ritornati live, stavamo chiacchierando di varie cose, ma adesso passiamo la palla a Galleria Più con 3L. In realtà Veronica, che salutiamo, non c'è, però, però ci starà ascoltando e sarà lì che dice: ma qua non si parla mai della mostra. E poi sarà lì che starà pensando, no, che ci controlla, che diciamo le cose come si deve. Claudio, hai curato una mostra personale di Ivana Spinelli. Sì. In realtà avevo una domanda per voi tre, però mi è già passata. Però era starnuto. Esatto. No, in realtà te la faccio a te, Ivana. Ma tu quando è che hai deciso che volevi fare l'artista? Cioè, quando ti è successa sta cosa, no? Quando è che ti è venuto il pallino dell'arte? Stamani. Parti proprio ma stamattina? Sì, sì, prima era così per così, scherzo. Era un hobby. Questa mattina ho detto, ma io oggi vado alla radio, quindi... E dunque sono un artista. Sì, cioè, esatto, è questo che mi... Vabbè. No, poi devo dire che l'emozione di, come dire, sono onorata di essere nominata in questo studio insieme a Valì Export e Claude Cahun. Ah, cavolo, infatti. Sì. Tonella Nocellin, no, perché tanto sì, siete... No, volentieri, cioè nel senso, tra l'altro ho amato molto i suoi titoli super ironici, sì, o almeno a me sono sembrati ironici. Ma non lo so, ti devo rispondere davvero? No, come vuoi. È troppo banale. Domanda troppo banale. No, è che in realtà non me lo potevo permettere, quindi essendo testarda, ogni volta che a casa mi dicevano, ma perché disegni? Non serve a niente. E alla fine il mio Daimon doveva... Ha deciso che non importava. Hai avuto genitori che non ti hanno permesso di fare il liceo artistico, tipo. No, perché io ho avuto genitori tranquillissimi che hanno detto, vabbè, vuoi fare il liceo artistico, vai, tanto, cioè, terzo figlio, per cui ormai fai un po' quello che ti pare. Mentre invece ho un sacco di amici che, soprattutto che sono arrivati in accademia, che mi dicevano, wow, che fortuna, tu hai fatto liceo artistico, i miei non me l'hanno lasciato fare. Anche a me. Neanche a te. No, mi hanno scoraggiato, diciamo. Ti hanno scoraggiato. Dicevano, Era vero appunto. Cioè, il fatto che sappiate per che la fortuna. Infatti a posteriori però, penso però, peccato non averlo fatto. Però esatto. No, ma infatti devo dire una cosa per gli eventuali ascoltatori, genitori che sono lì che non vogliono far fare l'artistico ai propri figli, sappiate che si drogano anche tutti gli altri, esatto, per cui insomma poi sappiate che se non glielo permettete poi insisteranno ancora di più, esatto, perché e si vorranno alla fine si drogheranno proprio perché non gli avete fatto fare il liceo artistico. Bene, allora passiamo. È stata un po' contropelo, esatto. Sì, guarda come prende la palla al balzo. E dunque parliamo di questa mostra che si intitola appunto Contropelo. Contropelo, sì, e basta. Così secca. Contropelo e basta o Contropelo? No, Contropelo. Ok. Perché chi l'ha chiamata Contropelo? Mi dà la colpa, certo. Okay. No, c'era uno di questi testi che stavo leggendo che introduceva il discorso dicendo che se gli studi della Maria Gimbutas fossero stati diffusi sarebbe stato come pettinare la storia a contropelo, per cui mi sembrava molto significativo, l'ho lanciata a Claudio e a Veronica e insomma abbiamo approvato immediatamente. No, è bello come titolo, Contropelo, effettivamente. Contropelo. Sì, no, no, appunto è quell'idea un po' di cambiare il punto di vista, no? O comunque di dare un po' quel fastidio. Mentre invece la mostra è lievissima. Dici? Esteticamente lievissima. Questo mi dispiace un po'. Ti dispiace. vedi, ti ho offeso. No, di una formalità quasi spiazzante. Io obiettivamente io conosco poco il tuo lavoro, cioè ti conosco di fama, ma ti ho guardato un po' online, però è la prima volta che vedo il tuo lavoro e sì, l'ho trovato formale. Questa cosa ti sto offendendo. No, come dire, parte vero. Ne sono consapevole, so che ho cercato una forma, perché poi, detto questo, io non c'ero all'inaugurazione dove una scultura veniva, esatto, dove cosa all'improvviso guardavi, come sei. Eri in mostra in una sala, vedevi un lavoro, poi all'improvviso non lo vedevi più e lo trovavi in un'altra parte della sala, e quella un po' era in effetti il centro però di tutto il lavoro, perché quando appunto sono andata a formalizzare questi lavori, passando dal disegno alla pittura e alla scultura, ho cercato di non bloccarli in una pittura che fosse solo visuale, in una scultura che fosse monumentale. Quindi il tentativo era di dargli un movimento, di dargli un contatto col corpo che fosse proprio fisico, di un utilizzo delle parti che ho messo in mostra. E dove appunto ti puoi, su una ti puoi sdraiare e in qualche modo meditare, raccogliendo anche l'aria che circola sotto la scultura, sotto la X. Esatto, quella fantastica aria del parco del Cavaticcio. Esatto. anche quel vuoto là. E nelle altre invece appunto si raccoglie, si nasconde, si no, si ma porta, raccontami, con sé. Raccontami la storia che c'è dietro, perché è affascinante. Ma non vuoi sapere dal curatore? Infatti, Claudio, ma raccontaci la storia che c'è dietro a questa mosca. Come l'hai raccontata una mattina alle 10 di mattina, io ero ancora un attimo spaesato. Dalla mattina. Sì, esatto. Però le colazioni in galleria in realtà secondo me dovrebbero essere una delle cose che su cui non avrei mai puntato un centesimo, invece le ripeterei, perché sono state quelle più frequentate e quelle in cui si riusciva ad avere un dialogo, come è stato con te e con il cane, e con il più profondo. Salutiamo ciao Sancho. No, devo fare prima di tutto una confessione, perché sono affiancato da due donne meravigliose, e per me era la prima volta che curavo una mostra personale di una artista donna. E non ho mai fatto in realtà differenze tra questa cosa, tra l'approcciarmi all'opera di un artista per il suo genere d'appartenenza. Però ho iniziato a pensarci, tra l'altro, per la prima volta seriamente durante la conferenza stampa della mostra sul paesaggio che avete evocato voi, e quindi devo per forza rifarmi a quella, in cui mi ero accorto io da solo, e l'ho detto io ai giornalisti, che in quella mostra avevo inserito 3 artiste su 20 e più. Beh, e quindi, tipico dei maschi curatori, esatto, maschi italiani. Però in quell'occasione dissi, insomma, che l'avevo fatto, e così era, insomma, l'avevo fatto esclusivamente scegliendo le opere. In questo caso è stato molto bello lavorare con Ivana, perché noi ci siamo conosciuti praticamente e abbiamo trovato una relazione su questa mostra per questo progetto in particolare, cioè Zigzag Protofilosofia, che è il nome del progetto al di là del nome invece della mostra stessa, e con il quale abbiamo dialogato parecchio, in particolare su temi che a me stavano molto a cuore, che sono appunto il linguaggio, la comunicazione, i codici linguistici, e che io avevo sempre affrontato in maniera molto fredda e analitica, fondamentalmente studiandoli attraverso le parole di studiosi maschi, che poi ho anche così deciso di citare tutti nel testo che ho scritto per la mostra, da Walter Ong fino a Derek de Kerchove. E invece in realtà nella mostra ho trovato una grandissima umanizzazione del linguaggio, cioè Ivana è partita dagli studi di Maria Gimbutas, che sono studi scientifici, sono studi analitici, sia archeologici che linguistici proprio, ma che anche all'interno, diciamo, delle pagine del suo testo più famoso, che si chiama Il linguaggio della Dea, tradiscono in realtà un grande approccio umano, animale oserei dire quasi, no? In questo caso, nel senso che si parla di segni, di incisioni, di accoppiamenti di linee fondamentalmente, ma lo si fa in maniera funzionalistica, lo si fa in maniera naturalistica, lo si fa in maniera antropologica a tutti gli effetti, senza una definizione di genere, e soprattutto andando oltre quello che per noi è oggi il linguaggio, cioè un codice che è come se fosse completamente al di fuori del corpo, completamente al di fuori delle questioni umorali, sanguigne in realtà del corpo. La mostra di Ivana e le opere che sono in mostra in realtà tentano il contrario, cioè tentano di riappropriarsi di quella parte del linguaggio che è umana, animale, e per questo poi diventa pittorica, diventa scultorea, diventa forma che però è anche raccoglitore di ovatta, di elementi arborei quiescenti, come li chiama lei, cioè non secchi ma che da un momento all'altro potrebbero riprendere vita, allo stesso tempo però è portabile e non portatile, nel senso che si può indossare, e quindi in questo caso molte delle sculture diventano abiti o diventano contenitori o elementi in grado di portare qualcosa. Ce n'è una di queste che è una di quelle a cui sono tra virgolette più affezionato, che si chiama Zig Zag Scaletta Scultura Felina, che contiene tantissime è quella che al mio cane piaceva meno, esatto, voleva collaborare è quella che piaceva al tuo cane anche con l'intervento, e contiene tantissimi dei livelli. Questa mostra in realtà, come ogni singola opera che è esposta, è fatta di tantissimi livelli uno sopra l'altro, insomma come vedere una di quelle immagini che vengono composte su Photoshop, sai, quando no, nascondi un livello alla volta per vedere quelli che sono nascosti poi alle spalle. E in quella scultura particolarmente c'è lo zigzag, che è uno degli elementi che la Gimbutas identifica come quelli fondamentali, in particolare perché questa forma triangolare ripetuta e affiancata diventa l'onda e quindi diventa il simbolo dell'acqua. C'è un dialogo, diciamo, solido, morbido, duro, delicato tra l'ovatta e il legno. Ci sono degli elementi che compongono la struttura dello zigzag e diventano a loro volta in realtà architettonici, e poi fondamentalmente c'è una gamba di un tavolo lavorata, cesellata dalle unghie del gatto di Ivana. Per due anni. Per due anni. Gli piaceva quella gamba oppure gliel'hai detto tu, vai e scolpisci? Ma lui, cioè, ma figurati se posso dargli un comando, è lui che, certo, come dire, mi controlla completamente. No, si è ritrovato prigioniero in un monolocale e si faceva le unghie lì. Mi sembrava, come dire, lecito lasciargli lo spazio di farlo. E poi appunto in realtà sto ancora ripensando a quella cosa che mi hai detto prima del fatto che beh, ecco, che sicuramente quella scultura lì è che io me la sono chiesta, questa sì, cosa, okay, cioè nel senso non per scagionarmi, però no, certo, proprio perché mi relaziono con le forme, proprio perché per esempio non so, negli anni 70, e qui Maura mi può contraddire, ma le artiste per esempio spesso rifiutavano la pittura e la scultura, facevano fotografie, facevano video proprio per non, come dire, anche per perché la pittura e la scultura erano state colonizzate per secoli, sì, dal linguaggio, da un altro tipo di linguaggio. E allora io oggi nel 2020 è chiaro che io mi relaziono con ogni tipo di linguaggio che c'è, e però comunque ho cercato di renderlo un po' sghembo dall'interno, quindi appunto nella scaletta trovi che comunque non solo si può muovere ma è sbilenca. Si vedono dei difetti come delle spille dentro, cioè diciamo che piuttosto che fare degli oggetti belli e rigidi, speravo di fare qualcosa comunque da cui trapelasse anche una pelle. E poi appunto è stato un tentativo, non è detto che io ci sia riuscita. Però ecco, anche il fatto di lasciare le tele un po' vissute con le loro rughe, con tutta una serie di cose che io, come dire, potrei considerare dei difetti viste su dei lavori. Tu da docente di scultura, esatto. Cos'è sta roba? Metti a posto. Esatto, dagli una stirata qua, metti, tirala un po' sta cosa. Esatto. Cioè, volendo ottenere un effetto pulito e molto formale, bisognerebbe fare un altro tipo di operazioni. Quindi sono stata proprio sul limite, perché da brava kamikaze io, come dire, mi butto, cioè non sto mai, come dire, sto sul muretto. I tuoi studenti cosa dicono? Cosa ti hanno detto? Qual è stato il feedback dei tuoi studenti? Quelli con cui ho parlato, e alcuni hanno partecipato, tra l'altro li ringrazio perché sono stati bravissimi, Michele Albano, Dario Furlan e Mihaly Kovacs, ma anche Cora mi ha dato una mano. Sono stati, mi guardavano con occhi diversi, come dire, ma tu hai una seconda vita. Ah, ecco. Non, no, ce l'avevi mai. È interessante questa cosa, no? Sì, perché effettivamente mettersi a nudo davanti ai propri studenti non è facile. Era la cosa di cui ero più preoccupata. C'era tutto il resto, il curatore. Ci sono maestri che non hanno mai avuto problemi in questo caso. C'era concetto che spesso e volentieri inseriva se stesso nei suoi discorsi sull'arte contemporanea, che io lo trovavo anche coraggioso effettivamente, perché è sì, bella sta cosa. Anch'io faccio un po' fatica, devo dire. Sì, una cosa un po' contraddittoria, però appunto... Sarà che non siamo artisti abbastanza famosi. Appunto, talmente famosi da non doverci citare nelle lezioni che facciamo. Esatto. No, io spero sempre nella curiosità, no, delle persone, certo. Quindi se c'è un approccio al lavoro che sia spontaneo, possibilmente, poi magari comunque hai un'influenza anche non volendo, certo. Dici delle cose che pensi. Quindi, tendenzialmente si fa così anche, esatto, in classe. Anche lì. Però sì, per ora, fino a che non ci impongono di dire altro. Però così. No, appunto, è stato, come dire, è stata una sfida tutta la mostra, perché c'era in realtà tanto lavoro pronto. Quando appunto con Claudio abbiamo parlato del lavoro, e che poi ha avuto, diciamo, un percorso abbastanza felice, devo dire, in questo anno, nel senso che poi appunto c'è stato un dialogo forte anche con Cecilia Canziani, che anche lei era venuta in studio l'anno scorso, Elisa Del Prete, e su questo lavoro, quindi, come dire, c'erano stati tanti incontri, no, importanti, che speravo che appunto fossero, continuassero il dialogo nella mostra. Infatti Cecilia e Elisa poi scrivono altri due pezzi per la mostra, e quindi diciamo che il gruppo di lavoro è stato pazzesco, e mi sento super, come dire, fortunata, no? Ad avere sia l'approccio critico che... Perché il pubblico non sa quanto lavoro c'è dietro a una mostra, o no, quello che pensa è l'artista sta in studio, fa ste robe, poi arriva, le mette su, esatto, e poi il gallerista le vende, no? Sì, mentre invece dietro è tutto automatico, esattamente automatico, mentre invece dietro c'è tutto un mondo di relazioni, di studio, di ricerca, che, no, per appunto la sfida è stata un po' è difficilissimo di... anche far trapelare in radio, sì, lasciatemelo no, ma dire. Infatti, ma è bello lasciare anche un po' questa leggerezza di così pensare che, ma noi ci divertiamo, poi per carità, io mi diverto un sacco, no, è che però... il nostro alone di mistero è così grande che alla, esatto, fine non ci si avventura più nessuno, non dentro trapela nulla, esatto, no, e per cui siamo diventati così degli sfigati ermetici che nessuno vuole aver nulla a che fare con, e mentre invece penso che ma abbiamo il nostro mondo, come dire, che ha contatto con il resto del mondo. Però appunto in questi tre mesi di preparazione della mostra, che erano pochi, cioè passare dal disegno che c'era già e che, con cui si poteva anche fare una mostra, e passare appunto alla pittura e alla scultura, è stata una sfida che solo Claudio poteva recepire, come dire. E dunque era lui alla app. e all'app, perché non dimentichiamo di dirci che è vero, che no, questo che linguaggio infatti, che parte dalla, ci sono gli dalla preistoria, esatto, e quindi che viene gli dalle caverne. Sticker scaricabili, ma sono per WhatsApp gli stickers? Sì. Perché a me mi si è impiantato tutto e per cui non e poi mi è passato di mente e non li ho scaricati. Ma per sei cui... un pessimo pubblicitario. No, infatti veramente te ne ho dette di ogni oggi e fra l'altro sta finendo il tempo per cui non posso nemmeno rimediare né rimediare né rincarare la dose se mai volessi però sta cosa qua mi era piaciuto moltissimo perché io seguivo, io sono un po' didascalico quando vado a vedere le mostre, soprattutto se nel foglio di carta c'è la mappa, allora mi metto lì a guardare tutto. A un certo punto non trovavo un lavoro che era appunto questi stickers, fino a che non ho notato che c'era il codice a barre da downloadare, eccetera. Vabbè, te ne manderemo uno stasera, dai, giusto? Anzi, no, mandatemelo immediatamente, esatto. che lo pubblichiamo perché da naturalmente da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutti gli stickers, il link per scaricarli e il link alla mostra che dura fino al 28 marzo, per cui c'è tutto il tempo che è a disposizione. Dal martedì al sabato, giusto? Esatto. Sì, sì. E invece la mostra Three Body Configurations fino a quanto dura? Lo sai a memoria? A no? memoria, okay. Fino al 18 aprile. Ah, cioè, addirittura tanto tempo. Tanto sì, tempo, sì. Fantastico. No, questo mi fa molto piacere perché effettivamente sono entrambe mostre potenti da non mancare. A Bologna in questo periodo ci sono state tantissime mostre, fra l'altro devo ancora vedere quella di Urs Luti che mi manca a proposito fotografia e body configuration, esatto, infatti no, perché infatti anche lui è uno piuttosto potente. E comunque detto questo io vi devo ringraziare e salutare perché il tempo è finito davvero e ringraziamo Ivana Spinelli che trovate in mostra con una mostra molto poco formale. Grazie, no? Formosa, esatto. Tutta grattugiata da sfogato, cioè non so se comunque esatto. Una mostra meravigliosa, e poi devo dire anche lo staff della Galleria più meraviglioso, staff meraviglioso che ci accoglie in maniera abbastanza inusuale, devo dire, anche molto accogliente, una delle gallerie più accoglienti di Bologna, esatto, in assoluto, sì. E poi si occupa di musica, infatti, ricerca. No, infatti con Veronica dobbiamo collaborare in maniera anche più stretta proprio per tutti i musicisti eccetera, perché qui si può suonare dal vivo malgrado il poco spazio dello studio, si può sudare dal vivo, esatto. No, devo dire che i mini concertini di Coxo Spaziale sono sempre una piccola chicca e ringraziamo naturalmente Claudio Musso che ha curato la mostra e finalmente ha curato una donna. Esatto. Grazie. E ringraziamo anche Fabio Ranaldi che ci starà ascoltando e che appunto aspettiamo qui per parlare di altre istanze femministe post-apocalittiche oppure che sia. E naturalmente ringraziamo, non abbiamo parlato dell'archivio Pozzati, ma dovrai tornare appositamente a parlare. Tornerò perché è un progettone. È un progettone di cui appunto mi hai accennato durante la pubblicità e che mi fa molto piacere perché il concetto Pozzati merita tutta questa energia. Per cui io vi ringrazio di nuovo, questo era Coxo Spaziale, io ero sempre Stefano W. Pasquini e lascio la parola come al solito al nostro fantastico direttore di radio che dice... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Nice and slow, get ready if you turn up the radio.